Ad alta voce, Marco Cavalcoli legge Arancia Meccanica di Anthony Burgess, traduzione di Floriana Bossi. Ottava puntata. Il nuovo Remigio scricciò un piccolo poco da principio, ma poi Muro gli assestò dei bei pugni sul truglio, mentre il gran giudeo lo teneva fermo contro le sbarre, così che lo si poteva locchiare alla lucina rossa del ballatoio, e lui faceva soltanto «Oh, oh, oh!». Non era un tipo di poldo robusto, e i festoni che cercava di restituire erano piuttosto debolucci, e suppongo che fosse proprio per quello che faceva andare tanto la slappa ed era così sbruffone. Comunque, vedendo la vecchia salsa rossa brillare in quella lucina rossa, riprovai il vecchio tipo d'esultanza e dissi «Lasciatelo a me, su! Ora lasciatelo a me, fratelli!». Così il gran giudeo disse «Sì, sì, ragazzi, è giusto. È tuo, Alex». E tutti si misero in circolo a occhiarmi crocchiare questo sgarrone nella penombra. Prima lo presi a pugni dappertutto, danzandogli intorno anche se avevo le scarpe senza stringhe, e poi lo trappettai e lui crash andò giù per terra. Gli detti un bel calcione cinebrivido sul planetario e lui fece «Oh!» e poi sbuffò tipo uno che s'addormenta. E il dottore disse «Bene, ora credo che basti come lezione», strizzando gli occhi per locchiare questo Martino tutto acciaccato sul pavimento. «Lasciamolo sognare che sta diventando un bambino buono». Così risalimmo nelle nostre cuccette, dato che s'era tutti piuttosto stanchi. E quello che sognai io, fratelli, fu d'essere in mezzo a una grande orchestra, con centinaia e centinaia di musicisti. E il direttore era un misto di Ludwig van e di G.F. Handel, e aveva l'aria d'essere molto sordo e cieco e stufo del mondo. Io stavo tra gli strumenti a fiato e suonavo il fagotto. Ma questo fagotto era bianco e roseo e fatto di carne, e mi veniva fuori dalle macerie, proprio in mezzo alla pancia. E quando ci soffiavo dentro, mi veniva sempre da gufare molto forte perché mi faceva il solletico. E allora Ludwig van G.F. si imburianò. Tutto frappè e imburianato, mi si avvicinò con la biffa e mi scricciò fortissimo nello snicchio, e io mi svegliai tutto un sudore. Naturalmente quel gran sguerzo era il campanello della prigione che faceva brrr, brrr, brrr. S'era in inverno e mi sentivo i fari tutti sporchi di sonnocolla e quando li aprii mi dolevano sotto la luce elettrica che avevano accesa in tutto lo zoo. Poi guardai in giù e vidi questo sgarrone nuovo per terra tutto insanguinato e ammaccato e ancora completamente out. Gufai un poco, ripensando a come erano andate le cose. Ma quando scesi dalla cuccetta e lo smossi con la patta nuda, mi sembrò un po' troppo rigido e freddo. Così andai alla cuccetta del dottore e lo scossi, dato che era sempre tanto lento a svegliarsi. Ma questa volta saltò giù al lampo, e così fecero gli altri, ad eccezione di Muro che dormiva come un mattone. «Che sfortuna!» disse il dottore. «Deve essere stato un attacco di cuore». Poi, guardandoci tutti, disse «Non avreste dovuto conciarlo in questo modo. È stata una vera sciocchezza». Joe John disse «Andiamo, dottor. Mica ti sei tirato indietro quando si è trattato di mollargliene due». Poi il gran giudeo si voltò verso di me dicendo «Alex, sei stato troppo impetuoso. Quell'ultimo calcio era ben gramo». Io cominciai a sentirmi tutto frappè e dissi «Chi ha cominciato, eh? Io sono entrato solo alla fine, no?». Indicai Giogione e dissi «È stata un'idea tua!». Muro russò un po' più forte, così disse «Svegliate un po' quel lezzoso bugarone!». Era lui che continuava a dargliele sul truglio mentre il gran giudeo lo teneva contro le sbarre. Il dottore disse «Nessuno vuol negare di avergli allungato qualche sberla per, diciamo così, dargli una lezione. Ma è chiaro che tu, ragazzo mio, con l'impeto e diciamo pure la sventatezza della gioventù, gli hai inferto il coup de grâce. È un vero peccato. Traditori, dissi, traditori e bugiardi». Perché l'occhiai che si ripeteva la storia di 2 anni prima, quando i miei cosiddetti soma mi avevano lasciato nelle granfie brutali dei cerini. Come la vedevo io, fratelli miei, non c'era una sola persona di cui fidarsi nel mondo intero. E Jojon andò a svegliare Muro. E Muro era pronto a giurare che era stato il vostro umile narratore il colpevole della brutalità e del festaggio vero e proprio. Quando arrivarono i satelliti, e poi il capo satellite, e poi il governatore in persona, tutti i miei soma di cella sciolsero volentieri la slappa per raccontare come avevo fatto a sballare quell'indegno pervertito che ora giaceva coperto di salsa sul pavimento tipo sacco di stracci. Quella fu una giornata parecchio strana, fratelli miei. Le macerie del morto furono portate via, e poi tutti i remigi della prigione dovettero restarsene chiusi in cella fino a nuovo ordine, e non fu distribuita nessuna boffa, nemmeno una tazza di cià. Si stava lì ad aspettare, mentre i guardiani andavano su e giù per i ballatoi, scricciando ogni tanto «chetati» o «chiudi quella fogna», appena snicchiavano anche solo un bisbiglio venire da una cella. Poi, verso le 11 del mattino, ci fu tutto un irrigidimento e un'eccitazione, e da fuori venne qualcosa come la sniffa della paura, tipo. E poi lo chiamo il governatore e il capo satellite e dei martini con l'aria di tamagna importanza che sprolavano tutti come scardinati. Sembrò che camminassero fino in fondo al ballatoio. E poi li snicchiammo che tornavano indietro, più lenti questa volta. E si snicchiò il governatore, un poldo grassoccio e sudaticcio e biondiccio, dire mottate come «Ma, signore!» e «Allora cosa possiamo fare, signore?» e così via. Poi tutta la banda si fermò davanti alla nostra cella e il capo satellite l'aprì. Si locchiava subito chi era il martino più importante. Era uno molto alto, con i fari azzurri e delle palandre davvero cinebrivido, fratelli, il più bel completo che avessi mai visto, assolutamente all'estremo grido. Lui sembrò che ci guardasse attraverso, noi poveri remigi, dicendo con una bellissima ciangotta da poldo istruito: «Il governo non può più avallare delle teorie penologiche tanto sorpassate. Ammucchiate dei criminali insieme ed ecco quello che succede. Ottenete della criminalità concentrata, il delitto dentro il gastigo. Otterrete della criminalità concentrata, il delitto dentro il castigo. Presto potremo avere bisogno di tutto lo spazio delle nostre prigioni per i delinquenti politici». Io non zeccai un accidente, ma dopo tutto non stava mica sprolando con me. Poi disse: «Il miglior trattamento da usare con criminali comuni come questa disgustosa gentaglia», e intendeva dire me, fratelli miei, mettendomi con gli altri che erano dei veri sgarroni e pure dei traditori, «è su basi puramente terapeutiche. Basta uccidere il riflesso criminale. Ecco tutto. Entro un anno si possono avere dei risultati del tutto soddisfacenti. La punizione non significa nulla per loro, lo vedete benissimo. Anzi, cominciano ad ammazzarsi l'un l'altro». E volse i freddi fari azzurri verso di me. Allora io dissi audacemente: «Con tutto il rispetto, signore, protesto contro quello che lei ha detto. Io non sono un comune criminale, signore, e nemmeno sono disgustoso. Disgustosi potranno essere gli altri, ma non io». Il capo satellite diventò paonazzo e scricciò: «Chiudi quella maledetta fogna, disgraziato! Non lo sai a chi stai parlando?» va bene», disse il gran poldo. Poi si voltò al governatore e disse: «Lui potrà essere il primo. È giovane, temerario e malvagio. Brodsky si occuperà di lui domani e lei potrà assistere alla seduta. Funziona sempre, non si preoccupi. Questo malvagio teppista verrà così trasformato che sarà irriconoscibile». E quelle dure mottate, fratelli, furono tipo il principio della mia libertà. We'll be right back. Quella stessa sera due brutali satelliti mi trascinarono, crocchiandomi e festandomi per benino, giù nel santo santorum dell'ufficio del governatore. Il governatore mi dette uno sguardo molto stanco e disse: «Immagino tu non sappia chi fosse l'uomo di stamattina, vero? 6655321?» E senza aspettare che dicessi di no, lui disse: «Era niente meno che il ministro degli interni, il nuovo ministro degli interni, e quindi una scopa nuova che scopa bene». Beh, alla fine queste ridicole idee nuove sono state approvate. E gli ordini sono ordini, anche se io in confidenza non sono affatto d'accordo. Non sono assolutamente d'accordo. Occhio per occhio, dico io. Se qualcuno ti colpisce, tu restituisci il colpo, non è vero? Allora perché lo Stato, colpito duramente da brutali teppisti come te, non dovrebbe colpirvi a sua volta? Ma le nuove teorie dicono di no. Secondo le nuove teorie dobbiamo cambiare i cattivi in buoni, il che mi sembra altamente ingiusto. Eh? Così io dissi, cercando di essere rispettoso e accomodante: «Signore», e subito il capo satellite, che stava tutto rosso e corpulento dietro la sedia del governatore, scricciò: «Chiudi quella sporca fogna, bastardo!» «Va bene, va bene», disse il governatore, tipo stanco ed esausto. «Tu verrai riformato. 6655321. Domani andrai da questo Brodsky. Sembra che in poco più di 15 giorni sarai messo in grado di lasciare il penitenziario. Tra poco più di 2 settimane non sarai più un numero, ma sarai di nuovo libero di circolare nel vasto mondo. Suppongo», e sbuffò un poco, «che questa prospettiva ti vada a genio, vero?» Io non dissi nulla, e allora il capo satellite scricciò: «Rispondi, lurido porco, quando il governatore ti rivolge una domanda». Allora dissi: «Oh, sì, signore. La ringrazio molto, signore. Qui ho cercato di fare del mio meglio, davvero. Sono molto grato a tutti quelli che hanno dato il permesso, signore». «Non esserlo», sospirò il governatore. «Questa non è una ricompensa. È tutt'altro che una ricompensa. Ora, qui c'è una carta da firmare. Dice che tu acconsenti a farti commutare il resto della pena nella sottomissione a questa cosa che qui chiamano, che espressione ridicola, trattamento di redenzione. Vuoi firmare?» «Certo che firmo», dissi, «signore, e moltissimi ringraziamenti». Così mi dettero una penna e io feci una bella firma con lo svolazzo. Il governatore disse: «Bene, questo è tutto, mi pare». Il capo satellite disse: «Il cappellano della prigione vorrebbe dirgli due parole, signore». Così fui accompagnato fuori e giù per il corridoio verso la cappella, festato per tutta la strada sul planetario da uno dei satelliti, ma in un modo tutto noia e sbadigli. E mi accompagnarono attraverso la cappella e dentro la cantonetta del salmiere. Il salmiere era seduto alla scrivania e aveva addosso una bella sniffa forte di cancerosa e di scotch di prima qualità. Mi disse: «Ah, piccolo 6655321, accomodati. E ai guardiani: aspettate fuori, eh?» E loro andarono. Poi mi parlò in un modo molto serio, dicendo: «Una cosa voglio che tu sappia, ragazzo, ed è che questo non ha niente a che fare con me. Se fosse il caso io protesterei, ma non lo è. C'è la questione della mia carriera, e la mia voce è ben debole per opporsi a certi elementi che hanno molto più peso nel sistema. Sono stato chiaro?» Non era stato chiaro per niente, fratelli, ma io feci lo stesso di sì. «Tutto ciò comporta dei problemi etici molto ardui», continuò. «Stanno per farti diventare un bravo ragazzo. 6655321. Non sentirai mai più il desiderio di commettere atti violenti o di offendere chi che sia in alcun modo, o di turbare la pace dello Stato. Spero che te ne renda conto. Spero che tutto ciò ti sia assolutamente chiaro». Io dissi: «Oh, sarà bellissimo diventare buoni, signore». Ma dentro di me mi feci una gufata cinebrivido, fratelli. Lui disse: «Essere buoni può non essere affatto bello, piccolo 6655321. Essere buoni può essere orribile. E mentre te lo dico mi rendo conto di quanto sembri contraddittorio. So che passerò molte notti insonni per questo. Che cos'è che Dio vuole? Dio vuole il bene o la scelta del bene? Un uomo che sceglie il male è forse in qualche modo migliore di un uomo cui è stato imposto il bene? Sono questioni profonde e difficili, piccolo 6655321. Ma ora voglio dirti solo questo. Se in qualsiasi momento, nel futuro, tu dovessi ripensare a questi giorni e ricordarti di me, il più infimo e il più umile dei servitori di Dio, ti prego, non pensar male di me in cuor tuo. Non credermi in alcun modo coinvolto in ciò che adesso sta per accaderti. E ora, a proposito di pregare, mi rendo purtroppo conto che non servirà molto pregare per te. Stai per entrare in una regione dove il potere delle preghiere non potrà più raggiungerti. Una cosa terribile a pensarci. Eppure, nello scegliere di venire privato della capacità di fare una scelta etica, tu hai in un certo senso scelto il bene. È a questo, e che Dio ci aiuti, 6655321, che penserò. E poi cominciò a piangere. Ma io non ci feci molto caso, fratelli. E anzi, dentro di me mi fece una gufatina, perché si locchiava benissimo che si era sgottato il vecchio whisky a tutt'andare. E anche ora tirò fuori una bottiglia da un cassetto della scrivania e si versò un tamagno sgotto cinebrivido dentro un bicchiere, tutto unto e saloppissimo. Lo buttò giù e disse: «Può anche andare a finir bene. Chissà, Dio opera in modi misteriosi». Poi si mise a cantare un inno con una ciangotta alta e potente. Poi la porta si aprì e i satelliti vennero a prendermi per riportarmi a festoni nella mia lezzosa cella, ma il vecchio salmiere continuò imperterrito col suo inno. Beh, il mattino dopo dovetti dire addio alla vecchia prista e mi sentivo un piccolo poco triste, come sempre succede quando dovete lasciare un posto al quale vi siete abituati. Ma non andai molto lontano, fratelli. A pugni e calci mi portarono nel nuovo edificio bianco dietro il cortile dove si usciva per l'aria. Era un edificio nuovissimo e aveva una specie di odore freddo, tipo vischioso, che ti faceva venire la pelle d'oca. Stavo lì in quell'orribile androne nudo e sniffavo con la mia sensibilissima pinna. Quelle erano sniffe tipo ospedale. E il martino a cui i satelliti mi consegnarono aveva un camice bianco tipo dottore. Lui fece una firma e uno di quei brutaloni che mi avevano portato lì disse: «Ci stia attento, signore. Questo qui è un gran bastardo e lo sarà sempre, anche se si è fatto su il cappellano e si è messo a leggere la Bibbia». Ma questo martino nuovo aveva dei fari azzurri cinebrivido e tipo sorridenti quando sprolava. Disse: «Oh, non facciamoci già dei problemi. Noi due diventeremo amici, non è vero?» E sorrise con i fari e con un bel truglio grande pieno di zughi bianchi e scintillanti, e io lo presi subito in simpatia. Comunque, lui mi passò a un altro poldo in bianco, ma meno importante, e anche questo qui era piuttosto gentile, e mi condusse in una bella camera tutta bianca e pulita, con le tendine e una lampada vicino al letto, e c'era un letto solo, tutto per il vostro umile narratore. Dentro di me mi feci una gran gufata di soddisfazione, pensando che ero proprio un malcichino fortunato. Mi dissero di togliermi le mie orribili palandre da carcerato e mi dettero un bellissimo pigiama, fratelli, tutto verde, l'estremo grido in biancheria da notte. E mi dettero pure una bella vestaglia calda e delle comodissime toffole per metterci dentro le mie patte nude. E io pensai: «Beh, Alex mio, ex piccolo 6655321, t'è andata proprio bene. Mi sa che qui te la spassi davvero». Dopo che m'ebbero dato una bella ciotta cinebrivido di caffè e delle gazzette e vecchi roto da guardare mentre glutavo, entrò questo primo poldo in bianco, quello che aveva firmato alla mia consegna, e disse: «Ah ah, eccoti qui!» Una trucca ben scema da dire, ma non sembrò scema per nulla, dato che lui era così gentile. «Io mi chiamo dottor Branham», disse. «Sono l'assistente del dottor Brodsky. Se permetti, ora ti farei la solita visita generale, come facciamo sempre», e tirò fuori il vecchio steto dalla gaioffa destra. «Dobbiamo essere sicuri che sei in perfetta forma, ti pare? Bisogna saperlo, no?» Così, mentre io stavo lì senza la giacca del pigiama e lui pasticciava di qua e di là, dissi: «Ma cos'è esattamente che mi farete, signore?» «Oh», disse il dottor Branham, con lo steto freddo che mi scendeva giù per la schiena, «è piuttosto semplice. Ti facciamo solo vedere dei film». «Film?» dissi. «Non riuscivo a credere ai miei snicchi, fratelli, come potrete benissimo immaginare. Vuol dire», dissi, «che sarà soltanto come andare al cinema?» «Si tratta di film speciali», disse il dottor Branham. «Film molto speciali. Faremo la prima seduta questo pomeriggio». «Sì», disse rialzandosi. «Sembri proprio un ragazzo in perfetta salute. Un po' denutrito, magari, ma è per via del cibo della prigione. Rimettiti pure la giacca». «Dopo ogni pasto», disse, mettendosi a sedere sul bordo del letto, «ti faremo un'iniezione nel braccio. Ti farà bene». Io mi sentivo molto riconoscente a questo gentilissimo dottor Branham. Dissi: «Un'iniezione di vitamine, signore?» «Qualcosa del genere», disse lui, sorridendo cinebrivido e tutto amichevole. «Una punturina dopo i pasti». Poi uscì. Io rimasi sul letto, pensando che quello era un vero paradiso, e lessi qualcuno dei roto che mi avevano dato, il Mondo Sport e Rotofilm e Goal. Poi mi sdraiai e chiusi i fari e pensai a come sarebbe stato bello essere di nuovo fuori, magari con un lavoretto comodo durante il giorno, dato che adesso ero troppo vecchio per la vecchia sculcuola, e poi forse mi sarei fatto una nuova ganga per la cupa. E il primo sgroppo sarebbe stato di beccare il vecchio Bamba e Pete, se non erano già stati beccati dai Cerini. E questa volta sarei stato molto attento a non farmi rabattare. Loro mi stavano dando un'altra occasione, tipo, con tutto che avevo commesso assassino, eccetera. E non sarebbe stato bello da parte mia farmi rabattare di nuovo, dopo tutto il disturbo di farmi vedere dei film che dovevano farmi diventare un buon malcico. Mi feci una gran gufata cinebrivido, pensando all'ingenuità di tutti quanti, e mi stavo proprio smascellando quando mi portarono la colazione su un vassoio. Il Poldo che me la portò era lo stesso che mi aveva accompagnato in questa mia cameretta e mi disse: «Fa piacere vedere la gente contenta». Era proprio una bella boffa appetitosa quella che mi avevano preparato sul vassoio. Due o tre trince tipo roast beef caldo con kartoffel mashé e verdurame vario. Poi c'era pure il gelato e perfino una cancerosa e una scatola di fiammiferi con un fiammifero dentro. Questa sì che era vita, fratelli. Poi, circa una mezz'ora dopo, mentre me ne stavo un po' assopito sul letto, entrò un'infermiera. Una quaglia giovane carinissima, con due tubericine brivido. Non ne vedevo da 2 anni, fratelli. E portava un vassoio e un'ipodermica. Io dissi: «Ah, le vecchie vitamine, eh?» E le feci clic clic con i fari. Ma lei non mi badò. Mi sbatté l'ago dentro il braccio sinistro e bsss, iniettò le vitamine. Poi se ne andò facendo tac tac con i tacchi alti. Poi il Poldo in camice, che doveva essere anche lui un infermiere, entrò con una sedia a rotelle. Io fui un piccolo poco sorpreso. Dissi: «Che capita, fratello? Posso certo pistonare con le mie gambe, ovunque si vada». Ma lui disse: «Meglio che ti ci spinga io. E a dir la verità, fratelli, quando scesi dal letto mi sentivo un piccolo poco debole. Doveva essere la denutrizione, come aveva detto il dottor Branham, tutta quella orribile boffa della prigione. Ma le vitamine nell'iniezione dopo i pasti mi avrebbero rimesso a posto. Senza alcun dubbio», pensavo. Marco Cavalcoli ha letto Arancia Meccanica di Anthony Burgess, traduzione di Floriana Bossi. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.